L'orizzonte resta quello della privatizzazione e in questo caso l'intervento del governo è pienamente legittimo, come viene riconosciuto anche dalla Comunità Europea. C'è l'orizzonte della privatizzazione e si era speculato su un intervento critico della Comunità Europea che non c'è perché nell'orizzonte della privatizzazione è pienamente legittimo un intervento del governo.